l'incarnazione di Cristo. Il personaggio di Gesù sta al centro della storia. Nel XIX secolo gli sono stati dedicati circa 62.000 volumi. Però, ci è un però. Egli è stato costantemente travestito e mascherato secondo la corrente del pensiero del momento. Nel IV secolo Ario diceva che Cristo non era Dio nel senso più completo, ma un subordinato. Nel V secolo Nestorio separò le due nature dividendo l'unica persona in due. Nel XVIII secolo, con l'illuminismo, Gesù diventa un saggio maestro illuminato da Dio. Con la venuta del kantismo diviene un creatore di un'etica, un moralista. Per il socialismo e il comunismo Gesù è il capo di un movimento di oppressi, un leader proletario. E non basta. Per il professore allegro, sitofobe, uno che detestava il cibo. Dromomane, cioè, non poteva stare fermo. Impotente per le sue esortazioni al celibato. Insonne perché passava delle notti in preghiera. Pazzo, i primi sintomi li avrebbe avuti a 12 anni nel tempio. Egli era l'alienato tipico. I critici affermano che Gesù è un uomo progressivamente divinizzato. I mitologi affermano che Gesù è un Dio progressivamente umanizzato. Sono felice quindi di poter esaminare l'argomento dell'incarnazione di Cristo, perché mi sembra di capire che questo aspetto di Cristo non sia stato compreso fino in fondo, neppure da certi cristiani. Spesso si attribuiscono alla natura divina di Gesù atti che sono relativi alla sua natura umana, svilendo e svalutando in questo modo la persona di Gesù. Come esempio posso ricordare che alcuni hanno attribuito il miracolo della tempesta sedata alla natura divina di Gesù, come pure la resurrezione di Lazzaro, anch'essa attribuita ad una sua capacità divina, vedi, aggiungi alla fede la conoscenza. Pag. 169. A me non risulta perché altri hanno compiuto cose straordinarie come Giosuè che comandò al sole di rimanere fermo in un punto del creato. Non è indispensabile sapere poi come avvenne, ma il fatto avvenne. Fatto tra l'altro notato anche da altre civiltà. Il problema riguardo al rapporto esistente fra le due nature di Cristo Gesù è un dibattito che risale fin dai primi anni dell'era cristiana ed è tuttora aperto. Vorrei quindi iniziare subito col dire che la vita di Gesù e la sua opera sono state pienamente umane ed esclusivamente umane, ma condotte dallo Spirito Santo. Ecco cosa dice Luca all'inizio del suo libro degli Atti degli Apostoli. Nel mio primo libro, Teofilo, ho parlato di tutto quello che Gesù cominciò a fare e a insegnare, fino al giorno che fu elevato in cielo, dopo aver dato mediante lo Spirito Santo delle istruzioni agli apostoli che aveva scelti. Atti 1, 1 a 2. Gesù stesso, ai farisei che lo accusavano di operare per mezzo del diavolo, testimoniò: «Ma se è con l'aiuto dello Spirito di Dio che io scaccio i demoni, è dunque giunto fino a voi il regno di Dio». Matteo, mezzogiorno e 28. Dunque Luca attribuisce le opere e gli insegnamenti di Gesù al fatto che era condotto dallo Spirito Santo. Gesù stesso afferma di scacciare i demoni per lo Spirito di Dio. Infatti, per quanto ne sappiamo, cominciò ad insegnare e a compiere miracoli dopo che lo Spirito Santo scese su di lui in occasione del battesimo, e dal quel momento, ripieno di Spirito Santo, fece i miracoli che noi conosciamo. Possiamo dimostrare che Gesù operò come uomo condotto dallo Spirito Santo, ricordando le opere di altri uomini condotti al pari di lui, dallo Spirito di Dio, e confrontandole con le sue. A. Gesù risuscitò dei morti? Lo fecero pure Eliseo e Pietro. Anzi, nel caso di Eliseo il morto, risuscitò quando il cadavere venne solo a contatto con le ossa di Eliseo, non quando il profeta era in vita. B. Gesù calmò le acque con la sua parola? Mosè divise il mare mentre Giosuè attraversò il Giordano che si divise sull'istante. Come del resto fecero Elia e Eliseo. C. Gesù guarì ciechi e paralitici? Lo fecero pure i profeti e gli apostoli. D. Gesù sapeva quello che c'era nel cuore dell'uomo? Anche Eliseo conosceva i pensieri del re di Siria, il quale per questo motivo tentò invano di catturarlo. E una donna è stata guarita appena ha toccato le vesti di Gesù? Il libro degli Atti narra che le persone erano guarite addirittura dall'ombra di Pietro. Atti 5, 14:16. Tutto questo si accorda con quello che Gesù disse: «In verità vi dico, chi crede in me farà anch'egli le opere che io faccio, anzi ne farà di più grandi di queste, perché io vado al Padre». Gesù agì quindi come un uomo ripieno di Spirito Santo. Gli apostoli lo hanno sempre considerato pienamente uomo, limitato sia come corpo, sia nell'anima e nello spirito. Vediamo nei Vangeli alcuni episodi dove sono evidenziate le limitazioni di Gesù, cioè il suo essere soggetto a mutamenti, mentre Dio non lo è. Che Gesù avesse un corpo limitantico testamento o uguale al nostro è dato dal fatto che Cristo fu fatto carne, Giovanni 1:14, nascendo da una donna, Galati 4:4. Il medico Luca non a caso fa notare che Gesù cresceva in statura e in sapienza, Luca 2:52, come ogni altro bambino normale. Matteo nel suo Vangelo enfatizza che, dopo 40 giorni di digiuno, Gesù ebbe fame. Matteo 4:21-18. Mentre viaggiava assieme ai suoi discepoli in una barca, gli venne sonno. E, perciò, dormì, Matteo 8:24. E sulla croce, tra i lancinanti dolori della crocifissione, espresse il suo bisogno di bere, Giovanni 19:28. Nella cultura occidentale Gesù viene raffigurato come un uomo bello e attraente, mentre il profeta Isaia, parlando di lui, disse che il suo aspetto non aveva nulla di particolarmente attraente, Isaia 53:1-2, tanto è vero che per farlo riconoscere dai partecipanti alla congiura, Giuda ha dovuto baciarlo, Matteo 26:48. Inoltre, se prendiamo alla lettera ciò che leggiamo sempre nel libro del profeta Isaia, Gesù era anche barbuto, Isaia 50:4-6. Segno questo, della sua piena maschilità. In merito poi al fatto che Gesù fosse limitantico testamento, il Nuovo Testamento è lettualme Nuovo Testamento e vi sono episodi che non lasciano dubbi. Quando una donna toccò per fede le sue vesti, Gesù chiese chi lo avesse toccato, Luca 8:40-46, mentre prima della moltiplicazione dei pani chiese ai suoi discepoli cosa avessero a portata di mano, Marco 6:38. Quando un giorno ebbe fame, andò a vedere se vi erano dei fichi sulla pianta, Marco 11:12-13, e quando insegnava in merito alle cose future, confessò di non sapere il momento del suo ritorno, Marco 13:32. Ma forse il dramma più grande del suo limite di conoscenza è stato sulla croce, quando chiese a Dio, e non al Padre: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Matteo 27:46. Infine vediamo Gesù. Spirito Alemme e Nuovo Testamento e limitantico testamento, cioè soggetto a mutamenti, quando nel Getsemani l'anima sua era profondamente triste, Matteo 26:38, quando si meravigliava della incredulità della gente, Marco 6:6, quando si accorse che i discepoli stavano discutendo, Marco 8:17, quando nell'ultima cena era turbato perché sapeva chi lo avrebbe tradito, Giovanni 13:21, quando giubilò nello spirito perché i misteri di Dio erano rivelati ai piccoli fanciulli, Luca 10:21, e qua. Se Gesù fosse stato solo Dio non avrebbe certamente sofferto la tentazione, Eb 2:18, come noi in ogni cosa. Eb 4:15, perché Dio non può essere tentato dal male, Giacomo 1:13, per cui era l'aspetto umano a soffrire. Questa non è una speculazione filosofica o dottrinale, infatti se non si fanno differenze tra la natura umana e quella divina di Gesù, si arriverà a concludere che in croce è morto Dio o che Dio soffre la fame, la sete e il sonno. Forse la dimostrazione più lampante dell'incarnazione di Cristo, della sua umanità, è il grande e insondabile mistero della sofferenza. E la sofferenza, a mio avviso, ad aver messo in evidenza più di tutto l'umanità di Cristo e ad aver reso il Figlio di Dio simile ad ogni altra creatura. Vediamo allora Gesù a contatto con la sofferenza. 1. Ebrei 12:1-2 e ST Antico Testamento a 1 Strume Nuovo Testamento per Dive Nuovo Testamento AR l'esempio perfetto di fede. Anche noi dunque, essendo circondati da un così gran numero di testimoni, deposto ogni peso e peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale, per la gioia che l'uomo contraddetto sistematicamente fu gli era posta davanti, soffrì la croce disprezzando. Ora considerate colui che sopportò una tale opposizione contro di sé da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate e veniate meno. Quando diciamo che Gesù soffrì, a cosa pensiamo? Gesù non soffrì per una malattia, perché colpito da un tumore, perché costretto a una vita di stenti, perché fosse tutto solo. Noi pensiamo subito alla croce, e, in parte è vero, ma non è solo a quella sofferenza che gli apostoli pensavano. L'autore della lettera agli Ebrei riassume la sofferenza di Gesù col dire: sopportò una opposizione dei peccatori. Gesù incontrava continuamente opposizione, fu schernito, incompreso, condannato ingiustamente. È veramente difficile vivere e amare in quelle condizioni, o rimanere perfetto, come lo fu Gesù. È vero che Dio aveva promesso a Gesù gloria e onore, ma intanto doveva passare del tempo nella sofferenza. Questo spiega il perché siamo chiamati a considerare la vita terrena di Gesù. Anche noi, come Gesù, abbiamo ricevuto molte promesse terrene e future, ma ora soffriamo perché la sofferenza è lo strumento preferito nelle mani di Dio per aumentare la nostra fede e la pazienza dell'attesa del ritorno di Cristo. Come è scritto nella lettera ai Romani, ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza. RM 5.4. Non solo. Giacomo, il fratellastro di Gesù, invita i credenti a considerare come argomento di gioia il trovarsi in svariate prove, sapendo che la prova della fede produce costanza. GC 1.23. E questa è la nostra esperienza quotidiana? L'uomo che Gesù visse pienamente come uomo perché 1 Ebrei 5.8 imparò l'ubbidienza. Benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. L'ubbidienza non è automatica per nessuno. Essere sottomessi ad un'autorità è già di per sé gravoso. Perciò, essere sottomessi all'autorità di Dio è una delle discipline più difficili, anche perché Dio è molto esigente e noi esseri umani, per inclinazione naturale, non possiamo sottometterci alle giuste e sante leggi di Dio. Pertanto, è ovvio che dobbiamo imparare l'ubbidienza. Ma Gesù, benché avesse una natura umana come la nostra, non aveva l'inclinazione ribelle alla santità come noi. Egli era programmato, per così dire, a vivere secondo giustizia, e non ereditò il peccato originale. Che cosa ha dovuto imparare il Figlio di Dio, non avendo dovuto assoggettare o dominare la sua natura ribelle? La sua natura era in armonia con la volontà di Dio. Poiché Gesù era Figlio di Dio, siamo portati a pensare che come tale non avesse grossi problemi nell'ubbidire e sottomettersi a suo padre. Eppure Gesù, come uomo, imparò una cosa indispensabile. Imparò l'ubbidienza. Non a caso il medico Luca ricorda un episodio nel quale Gesù, allora dodicenne, è ripreso da Maria a causa di un comportamento, a suo avviso, non molto corretto. Gesù le risponde convenientemente e l'evangelista Luca, per togliere ogni dubbio, scrive: «Ed egli scese con loro, tornò a Nazaret e stava loro sottomesso». DNLC 2.51. Questa puntualizzazione è molto importante, perché se Gesù ha imparato l'ubbidienza dalle cose che soffrì, è perché ha esercitato la sottomissione fin da bambino. Da notare, Gesù aveva dei genitori umani, peccatori mancanti, e, come dice l'autore della lettera agli Ebrei, essi lo correggevano come sembrava loro opportuno, Eb 12.10, perciò non è sbagliato pensare che gli avessero anche dato ordini non tanto corretti. Eppure, Gesù stava loro sottomesso. Com'è importante questo aspetto? Va però precisato che la sottomissione non è sinonimo di ubbidienza, perché a un ordine non lecito si può disubbidire. Per cui, quando leggiamo che Gesù ha imparato l'ubbidienza, non è in riferimento tanto alla sottomissione, quanto all'esecuzione delle cose che Dio comandava, anche se queste costavano dolore e sacrifici. Per noi è più facile essere sottomessi che obbedire. Essere sottomessi, cioè rispettare le autorità, possiamo anche farlo, ma ubbidire ha sempre un costo molto alto. Pensiamo al profeta Giona, a Mosè davanti alla roccia, a tutti gli uomini di Dio che hanno disubbidito. Se non pensiamo di essere migliori di loro, abbiamo molto da imparare da Gesù. Mi correggo. Non molto, tutto. 2 Ebrei 5, 9 fei reso perfetto. Benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì, e reso perfetto, divenne autore di salvezza eterna per tutti coloro che gli ubbidiscono. Gesù, in quanto Dio, non aveva dei difetti. Non aveva alcun rapporto con il peccato. Egli è il Santo d'Israele, Is 49.7, vissuto in virtù di una vita indistruttibile, E B 7.16. Eppure, in quanto uomo, non era perfetto. Il termine perfetto nella Bibbia ha il significato di completo, per cui possiamo dire che Gesù in quanto uomo non era completo. O detto diversamente, Gesù era un handicappato, un portatore di handicapitolo. Che cosa mancava a Gesù per essere completo? Non era egli l'uomo per eccellenza? Sì, Gesù era veramente l'uomo, un uomo in tutto. Eppure gli mancava qualcosa come uomo, l'esperienza della sofferenza. La sofferenza ha insegnato a Gesù uomo qualcosa di cui non è. Aveva esperienza nella gloria dei cieli. Egli, come ogni altro uomo, era soggetto al tempo e allo spazio, alle gioie e ai dolori, diventando simile ai suoi fratelli in ogni cosa. Eb 2.17. Quindi, quello che ha dovuto imparare Gesù era di accettare le contrarietà, l'opposizione, gli scherni, le tentazioni, i limiti del suo corpo come il sonno e la fame. E queste cose non sono amabili né desiderabili per il nostro corpo e la nostra mente. Così Gesù dovette imparare ad accettare quello che alla sua natura non piaceva, dovette realizzare, come figlio di Dio, ciò che provano i figli degli uomini. Perché una cosa è venire a conoscenza di una certa sofferenza, altra è sperimentarla. Questo aspetto, ancora una volta, fa sì che il Dio dei cristiani sia veramente unico. È vero che Dio è talmente al di sopra dell'uomo, che nel libro di Giobbe viene chiesto, contempla il cielo e osserva, guarda le nuvole, che sono più alte di te. Se pecchi, quale inconveniente gli procuri, se moltiplichi i tuoi misfatti, che danno gli arrechi? Se sei giusto, che cosa gli dai o che cosa riceve dalla tua mano? GB 35.57. Però, poiché le tre persone della Trinità, il Padre, il Figlio e il Consolatore, condividono la natura divina in Cristo, nel quale abita tutta la pienezza della Deità, col 2.9, possiamo dire che Dio è pienamente partecipe della sofferenza dell'uomo. L'umanità di Gesù è il tramite di Dio per assaporare tutti i limiti e le imperfezioni dell'uomo. Un simile Dio, se non si fosse rivelato, era impossibile inventarlo. 3. Marco 10 e 32. Non evitò elle a sofferenza. Or essi si trovavano in viaggio per salire a Gerusalemme, e Gesù li precedeva, ed essi erano sgomenti e lo seguivano con timore. Ed egli, presi nuovamente i 12 in disparte, prese a dir loro quello che gli sarebbe accaduto. Questo brano della scrittura è veramente carico di significato. Gesù stava andando a Gerusalemme, precedeva i discepoli, e questi erano stupiti, impauriti, sgomentati. Perché erano sotto la minaccia? Di qualcuno? No. Gesù aveva rivelato ai discepoli di dover soffrire molte cose, di dover essere respinto dai capi religiosi e alla fine morire, 8:31 e 9:31. Ma, nonostante tutto, andava davanti a loro. La grandezza di Gesù è stata certamente quella di saper soffrire, ma un maggior merito è stato quello di voler soffrire, di andarci incontro, di non sottrarsi alla sua chiamata. Il grande profeta Elia era fuggito alle minacce di morte. Noi soffriamo perché non possiamo evitarlo, perché non sappiamo quello che ci capita. Spesso affermiamo, se tornassi indietro non rifarei quella cosa, non mi sposerei, non aiuterei quella persona. Questo dimostra che, conosciute le conseguenze, eviteremmo certe occasioni o scelte che, apparentemente, sembrano eroiche. Gesù sapeva quello che gli sarebbe capitato, eppure camminava davanti ai suoi discepoli tutti spaventati. Anche questo ha reso l'uomo Gesù il più grande di tutti gli uomini. La sofferenza ha reso Gesù uomo com'è. Esempio perfetto di fede, lo ha reso completo. Per lui la sofferenza è stata lo strumento per imparare l'ubbidienza. Questo è il vero uomo. E colui che si lascia modellare da Dio mediante la sofferenza e non colui che porta a termine meno costi quello che costi meno le proprie ambizioni. L'apostolo Paolo, che dalla vita aveva imparato ad accontentarsi dello stato in cui si trovava, ad essere sazio, come ad avere fame, ad essere onorato come disprezzato, riteneva questo spirito d'adattamento del proprio animo un bene prezioso più dell'oro, che può venire meno. Ecco una delle tante ragioni del valore della sofferenza. Gesù non evitò nessuna sofferenza perché ne conosceva il valore terapeutico a livello fisico e mentale. E noi, come ci comportiamo nei confronti della sofferenza? Non solo l'accettiamo, ma andiamo incontro ad essa con l'intenzione di soffrire? La risposta più immediata è certamente no, ma col tempo, più si conosce Cristo, più si può fare anche questo. L'apostolo Pietro scrisse: «Poiché dunque Cristo ha sofferto per noi nella carne, armatevi, cioè prendete decisamente la risoluzione, anche voi del medesimo pensiero». 1 Pitti 4.1. È possibile anche questo in colui che ci fortifica. Cristo si è fatto carne e ho quattro ragioni fondamentali per affermare che egli visse veramente e pienamente come uomo e non come Dio, anche se lo era, lo è sempre stato e sempre lo sarà. A. Ebrei 4 un quarto e ST Antico Testamento a T e Nuovo Testamento Antico Testamento o come uno di noi. Infatti noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Confrontare con la È vero che Dio non può essere tentato dal male, ma concludere che Gesù non poteva peccare perché era Dio mi sembra una conclusione sforzata. Vedi, aggiungi alla fede la conoscenza, meno GBU 1994, pag 173. Se vogliamo salvare il concetto della seità di Dio, cioè che egli è autosufficiente, non dominato da passioni, non soggetto ai limiti dell'uomo, allora, dal momento che Gesù è Dio, egli non doveva soffrire né la fame, né la sete, né il sonno. Ma Gesù, in quanto uomo nato dal seme di Davide, LC 1.3133, era limitato, come ogni altro essere umano. Attribuire a Gesù l'incapacità di peccare perché era Dio, significa negare la sua natura umana uguale a quella di ogni altro uomo. Significa dimenticare che era soggetto a debolezza. E.B. 5.2. Se Gesù non poteva peccare, che meriti ha avuto per ciò che riguarda la redenzione? Se Gesù non poteva peccare, come poteva essere un uomo a tutti gli effetti ed essere il secondo Adamo? Se Adamo ha potuto peccare e Gesù è il secondo Adamo, avendo la stessa natura, Gesù aveva realmente la possibilità di peccare, anche se era positivamente santo e giusto. Atti 3.1.4. Gesù era un uomo, anzi il vero uomo. È opportuno rileggere lo scritto di Paolo, che molto probabilmente era un inno dei primi cristiani, in una versione che mi sembra molto appropriata. Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo, e, divenendo simile agli uomini, apparso in forma umana, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte della croce. Non uguale, simile perché aveva caratteristiche in comune con il genere umano. Meno una, il peccato. B. Antico Testamento T.E.O. 26, 39 aveva una volo Nuovo Testamento propria. E andato un poco in avanti, si gettò con la faccia a terra e pregava dicendo: «Padre mio, se è possibile, allontana da me questo calice, tuttavia non come io voglio, ma come vuoi tu». I cristiani credono in un solo Dio, in tre persone, Padre, Figlio, Spirito Santo. Ciò che desidera il Padre è ciò che desiderano il Figlio e lo Spirito. Ciò che desidera il Figlio è ciò che desiderano il Padre e lo Spirito. Ma, al Getsemani, Gesù pregò il Padre perché fosse fatta la sua volontà e non ciò che egli avrebbe voluto. In questa preghiera si rivela tutta l'umanità di Gesù. Sì, Gesù visse 33 anni, facendo sempre la volontà di suo Padre, e questo non perché egli era Dio, ma perché scelse liberamente di fare la sua volontà. Non considerare questo aspetto significa negare la natura umana di Cristo e il valore del suo sacrificio. Ad alcuni può sembrare difficile separare l'umanità di Gesù dalla sua divinità. Non si tratta tuttavia di una separazione tra le sue due nature, ma di distinguerne le funzioni, la natura ontologica dalla trinitaria. Quando nelle Scritture ci si riferisce al Padre, al Figlio e all'altro Consolatore, si parla di un solo Dio. Occorre però non confondere le relazioni esistenti all'interno della loro comunione con le loro specifiche relazioni con il creato e l'uomo. I teologi chiamano questa diversità trinità ontologica e trinità economica. La trinità ontologica è riferita all'interno della trinità dove le tre persone sono uguali in onore, gloria e potenza. Tre persone sussistenti nell'unico tutto indiviso e indivisibile Dio. La trinità economica si riferisce ai ruoli rivestiti da ciascuna delle tre persone della Deità, distinte tra loro, nell'opera di salvezza. Per compiere questa differenza occorre una mente trinitaria, senza la quale predicheremmo un monoteismo trinitario secondo il quale tutti abbiamo uno stesso Dio. Perciò, avere chiarezza in merito all'incarnazione di Cristo e alla sua piena umanità non è uno sfizio teologico, ma una necessità per non cadere in qualche estremo. Vedere Gesù non completamente identico a qualsiasi uomo, sebbene privo di peccato, ci porterebbe a puntare il dito verso di lui. Perché nel giorno del giudizio avremo la scusante che in fondo non ci può capire. Ma poiché ha provato ogni tipo di sofferenza, in quel giorno avrà tutti i diritti di giudicare gli uomini, GV 5.22, e di mettere a tacere ogni bocca. C. Giovanni 10 e 17, 18 busta alla morte. Per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per prenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma la depongo da me stesso. Io ho il potere di deporla e il potere di prenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. Dio non può morire, egli è la vita, l'eterno, l'immutabile. Eppure Gesù morì, anche se in lui abita tutta la pienezza della Deità, col 2.9. Cristo Gesù non depose la sua vita come Dio, ma come uomo. Come Dio, Cristo Gesù assunse la natura umana a tutti gli effetti e, addossandosi la colpa degli uomini, come peccatore, ha dovuto morire anche lui perché la legge del peccato è la morte. Quando Nietzsche disse che Dio era morto, si levò un coro di voci cristiane per negare questa affermazione. E questo è stato certamente buono. Per quanto mi riguarda, però, avrei risposto Dio. Chi? Perché noi cristiani crediamo in una divinità nella quale sussistono tre persone, e quando si dice che Dio è morto si dovrebbe specificare quale di queste tre persone è morta, oppure se sono... Poi avrei risposto che effettivamente Gesù, nel quale abita tutta la pienezza della Deità, insisto su questo, è morto, ma, mettendo pure in chiaro che la sua morte è stata unica, perché nessuno lo ha ucciso, poiché egli, di sua spontanea volontà, ha deposto la sua vita per i peccatori. Così il mio interlocutore avrebbe udito l'Evangelo nel propormi una grossa fesseria. Perché fesseria? Perché ora lui è morto, mentre Cristo Gesù è vivente ed è alla destra di Dio, intercedendo per chi ha posto fede in lui. È bene prendere queste riflessioni sul serio, perché anche i teologi concordano che molte dottrine eccessive sul conto di Maria, la madre di Gesù, sono sorte. Proprio perché la piena umanità di Gesù è stata trascurata. Compendio del pensiero cristiano, voce della Bibbia 1994, pag. 332. Questo fatto dovrebbe indurre il credente molto attento a non presentare solo la divinità di Gesù, ma a parlarne soprattutto come figlio dell'uomo, espressione, Questa, non solo riferita ad un fatto profetico, ma affermante che Gesù fu il solo a realizzare quanto contenuto nell'idea di uomo, come secondo Adamo, capo e rappresentante della razza umana. Vi è di più. Quando Gesù gustò la morte, molto probabilmente non gustò solo la morte fisica, ma anche una morte spirituale simile ai perduti, perché sulla croce disse: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Nemt 27.46. E la morte spirituale che cos è se non essere abbandonati da Dio o, come l'ha definita Paolo, respinti dalla presenza del Signore. 2 Tessa 1.9. Gesù fu pienamente uomo anche in questo. D. Mantico Testamento T.E.O. 3 13 17 Giovanni 1 e 29 34. Nessuno sospettò che fosse Dio. Allora Gesù venne dalla Galilea al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato. Ma Giovanni gli si opponeva fortemente dicendo: «Io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me?» E Gesù, rispondendogli, disse: «Lascia fare per ora, perché così ci conviene adempiere ogni giustizia». Allora egli lo lasciò fare. E Gesù, appena fu battezzato, uscì fuori dall'acqua. Ed ecco, i cieli gli si aprirono, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il mio amato Figlio, nel quale mi sono compiaciuto». Se Gesù non si fosse comportato perfettamente da uomo, si sarebbe rivelato come Dio. Se egli non si fosse sottomesso ai genitori, se non avesse mangiato, se non si fosse mai stancato, se non avesse sofferto e non fosse stato realmente tentato, i suoi contemporanei lo avrebbero notato. La sua fama, relativamente a tali cose, si sarebbe sparsa ovunque. Alcune persone vedono nel rifiuto di Giovanni di battezzare Gesù la prova che riteneva suo cugino Dio. Ma non era così. Il suo rifiuto era motivato invece dal fatto che Giovanni conosceva il figlio di Maria come una persona irreprensibile e quindi il battesimo per lui non aveva senso. Giovanni battezzava perché fosse possibile riconoscere l'agnello di Dio e perché Israele conoscesse chi era il Messia. Giovanni credette per fede che Gesù fosse mandato da Dio, nonostante lo conoscesse fin da piccolo, poiché erano parenti. Chissà quante volte avevano giocato assieme e scherzato. Proprio per questo, Giovanni sapeva molto bene quanto Gesù fosse irreprensibile e umano. Ma fino a quando non battezzò Gesù e vide scendere lo Spirito Santo su di lui, Giovanni non comprese chi fosse veramente Gesù. Gesù è stato sulla terra un uomo come noi, senza commettere peccato, Eb 4.15. Quello che ha fatto e detto è stato il risultato di una completa sottomissione allo Spirito Santo e a Dio Padre. Anche noi, se sappiamo essere sottomessi, ubbidienti, se lasciamo agire lo Spirito Santo in noi, se sappiamo rinunciare alla nostra sbagliata volontà, avremo una vita abbondante ora e riceveremo in cielo. Come Cristo Gesù uomo, un telametro 2.5, un grandissimo premio. Dicembre 2009, Ellero.